scale pronto a farla finita. Ricorrevo una vita fuggita dall'anima, passata forse mentre lui neanche c'era. Anche se c'era, dov'era? Tra il lavoro e le difficoltà. Si fermò sull'ingresso per un attimo, scosso dal brivido caldo della città. Il cielo urlava bianco come cemento, con voce di vento e di pioggia. Volavano dovunque mille parole, la famiglia reale era in visita alla città. E Vivana voli odiava e senza sosta, ma che gran bella festa quando passava sua maestà. Lui vendette la giacca per comprarsi un coltello e nasconderlo in un fazzoletto rosso. Convinto che non fosse il gesto di un pazzo, si mise ad attendere il proprio turno. Ed era come partire, era come cadere nel vuoto senza fine dell'inevitabilità. Il re si avvicinava, un barco si apriva, lui in un soffio diceva: nessuno mi fermerà. Non ho una fede, non ho una bandiera, ma nemmeno paura, alla mia mano questo basterà. Sale sulla carrozza, scomparve la piazza, scomparvero il mare, le idee, la gente. Il tempo collassava dentro l'istante, partiva la mano di passannante. Arrestato e condannato all'ergastolo, la sua famiglia internata in un manicomio criminale, al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1 metro e 50, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola ad un braccio, un temperino di 8 centimetri.